338. Bracciuole di castrato e filetto di vitella alla finanziera. Ponete nel fondo di una cacciaruola una fetta di prosciutto, alquanto burro, un mazzettino composto di carota, sedano e gambe di prezzemolo, e sopra queste cose delle bracciuole intere di castrato nella lombata, che condirete con sale e pepe. Fatele rosolare da ambedue le parti, aggiungete un altro pezzetto di burro se occorre e unite alle bracciuole ventrigli di pollo e dopo fegatini, animelle e funghi freschi o secchi già rammolliti, il tutto tagliato a pezzi. Quando anche queste cose avranno preso colore, bagnate con brodo e fate cuocere a fuoco lento. Legate l'umido con un po' di farina e per ultimo versate mezzo bicchiere o anche meno di vino bianco buono, fatto prima scemare di metà al fuoco in un vaso a parte e fate bollire ancora un poco perché si incorpori. Quando siete per mandarlo in tavola, levate il prosciutto e il mazzetto, passate il sugo dal colino e digrassatelo. Nella stessa maniera si può fare un pezzetto di filetto di vitella invece del castrato, aggiungendo ai detti ingredienti anche dei piselli. Se farete questi due piatti con attenzione, sentirete che sono squisiti.